Quella manifestazione nazionale degli artisti contro la guerra nasce da un appello lanciato da Trieste dal nostro collega Edvino Ugolini, che è promotore per la città di Trieste, e appunto è stato lanciato a maggio ed è stato raccolto in tante città italiane, fra cui Roma, Bologna, appunto Trieste, e Antella, provincia di Firenze. E contemporaneamente alle 18 partiranno con uno spettacolo dedicato proprio al ritiro delle truppe contro la guerra, per i diritti dei popoli e i diritti dei popoli dei migranti in tutte e quattro le città italiane, e contemporaneamente anche su Francoforte, dove si trova l'artista Pino De Marc, che è un poeta bolognese che appunto ha organizzato con il centro sociale Excess di Francoforte un'analoga manifestazione. In tutta Italia appunto lo spettacolo raccoglie adesioni da artisti che lavorano in tutte le arti, quindi c'è esposizione di pittura, c'è fotografia, ma comunque ecco la parte più importante, più godibile diciamo di questa manifestazione degli artisti contro la guerra sicuramente la fanno gli artisti di teatro, i cantanti e i poeti, perché in ogni città appunto ci sarà recitazione di poesia, ci sarà lettura di brani anche scritti, ecco per esempio qui abbiamo una poetessa e scrittrice che si chiama Carla Guidi che reciterà una parte di un suo spettacolo, e per esempio qui abbiamo anche voluto una voce proveniente dai popoli, quindi hanno aderito a questa manifestazione, nostra manifestazione romana, Mohamed Salman, che è un cantautore palestinese nato nel 79 e trasferito in Palestina, dove ha incominciato lì a studiare e poi ecco venuto qui in Italia per seguire un corso organizzato dalla Regione Lazio, ed è rimasto poi per collaborare a dei progetti artistici. Quindi sarà nostro ospite questa sera intorno alle 8:30 e dopo di lui abbiamo una scuola di artisti, la scuola Timba di Gianfranco Tofanelli, che porta su questa splendida piazza romana ben 20 artisti percussionisti che porteranno la voce dell'Africa su questa piazza, e quindi diciamo tutte quelle voci che comunque narrano di diritto dei popoli e che narrano sicuramente delle esigenze di territori nei quali ci sono dei conflitti. Noi riteniamo che sia molto importante questa manifestazione in quanto è un'anticipazione di quello che sarà la Rete Nazionale delle Arti, che sarà anche un comitato che raccoglie sul territorio nazionale tutte le associazioni di artisti presenti sul territorio nazionale.